siamo alle solite, perché siamo di fronte a un governo che si esercita in un gioco muscolare, in un gioco di propaganda, che come al solito ha come oggetto e come vittima persone in carne ed ossa, persone innocenti, persone che salvano la vita di chi rischia di perdere, persone che sono state salvate mentre rischiavano di perdere la loro vita. È un gioco indegno, è un gioco di cui dovremmo tutti vergognarci e che fa vergognare un intero paese. Se non sbaglio, tu sei stato a bordo in una precedente missione, no? Della Marionio? Sì, io sono stato a bordo della Marionio per due volte, in due diverse missioni. Sono stato a bordo di Open Arms l'estate scorsa per 20 giorni, dunque ho una qualche esperienza di quello che accade quando ci si trova in mezzo al mare e quando ci si trova di fronte a situazioni di emergenza, come è capitato in questo caso. Già anche ieri il ministro Salvini evoca la questione del rispetto della legge, ma appunto anche oggi l'armatore ha ribadito che tutte le leggi internazionali sono state rispettate. Sono state rispettate, come sempre accade in questi casi, perché la Marionio si è trovata di fronte a una condizione di emergenza, un gommone in avaria ormai da diverse ore, che era in mare da molte ore, che cominciava ad imbarcare acqua, con 49 persone, di cui pare diversi minori, i primi dati ci dicono circa 12, ma su questo non posso essere ovviamente più preciso, e hanno fatto semplicemente quello che dovevano fare, cioè le hanno messe in sicurezza, le hanno trasbordate da un gommone che rischiava di affondare su una nave in grado di accoglierli in una condizione di sicurezza. Sulla base di questa operazione la nave si è diretta verso il porto sicuro più vicino, che in questo caso rispetto alle norme internazionali è il porto italiano di Lampedusa. Ricordo inoltre che la Mare Ionio è una nave che batte bandiera italiana, dunque mi aspetto qualche risposta da chi, come il ministro degli interni, ha raccontato al paese in tutti questi mesi, quando ci siamo trovati di fronte ai casi di Sea-Watch 3 o di Open Arms, che quelle navi avrebbero dovuto condurre i migranti salvati nei loro paesi di origine o nei paesi relativi alla bandiera di riferimento dell'imbarcazione. La coincidenza ha voluto che oggi il Senato voti sul caso Diciotti, l'orientamento insomma è già stato reso pubblico, quello di salvare il ministro Salvini dal processo. Ecco, la domanda anche provocatoria è: Salvini è l'unico che può essere salvato? Sì, parlo proprio di sì, che può essere salvato non solo da rischi particolarmente gravi come quelli che corrono le persone che attraversano quella che è diventata la più pericolosa frontiera del mondo, ma addirittura salvato dalla possibilità che qualcuno si accerti della correttezza dal punto di vista legale e normativo del suo comportamento. La magistratura è un organo indipendente, il fatto che la politica e in questo caso il governo possa essere messa a riparo e al di sopra dell'autonomia della magistratura mi sembra un segno insieme di grande debolezza e anche di grande decadimento della cultura politica di questo paese.